Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Continuano le nostre passeggiate napoletane. Oggi andiamo un po' nel cuore della città, cioè nella cappella di San Gennaro, del grande storico patrono di Napoli, cappella che si trova annessa alla cattedrale di Napoli. È un luogo strepitoso. Qui non c'è solo una cosa da vedere, non si sa dove poggiare gli occhi, perché la cappella è davvero ricchissima. Sorse come un ex voto quando la città all'inizio del Cinquecento era afflitta dalle lotte tra i francesi e gli spagnoli, e soprattutto dalla peste, e poi c'era pure il Vesuvio che eruttava. Un momento di grave crisi, andarono da un notaio i napoletani e fecero stendere un contratto con il santo, con tanto di ceralacchi e sigilli. Se fossero passati questi flagelli, Napoli gli avrebbe costruito una cappella. E così fu. All'inizio del Seicento venne costruita questa grande cappella che nel giro di pochi anni venne adornata in modo straordinario, come la vediamo noi oggi. Cominciarono naturalmente a raccogliere le reliquie più importanti, cioè il cranio del santo, che venne rinchiuso, anzi era già stato rinchiuso in un bellissimo reliquiario medievale, poi le ampolle famose dove c'è il sangue e con il miracolo della liquefazione, e soprattutto tutto quello che veniva messo addosso a questo busto, quindi una mitra meravigliosa, cioè un cappello da vescovo tempestato di diamanti, rubini e smeraldi, la collana di San Gennaro, insomma tutte queste cose meravigliose. Chiamarono anche dei pittori perché volevano che la cappella fosse adornata di sculture e anche di pitture. La cosa divertente è che cercarono di far venire pittori dall'estero, ma i pittori napoletani non amarono queste scelte e fecero in modo che i pittori dall'estero non venissero, minacciandoli di morte. Uno di questi pittori, Domenichino, che veniva dal nord, dall'Emilia Romagna, venne avvelenato durante la realizzazione degli affreschi. Ne chiamarono un altro, Lanfranco, che completò la cupola. Per fortuna era talmente in alto che non riuscirono a raggiungerlo, ma furono particolarmente vendicativi. Tutta questa storia oggi non la si ricorda più. Quello che si ricorda è la magnificenza dell'insieme: pitture, sculture, argenti, ci sono dei meravigliosi candelieri che si chiamano splendori, e poi naturalmente la devozione del popolo che completa questo grande spettacolo barocco che è la Cappella di San Gennaro.